Sono libero e non posso cantare, libero come un'aquila io posso volare. Il vento dei disagi mi fa sognare, questa vita è un vero mostro, un mostro totale. Ti picchia forte ma ti devi rialzare, Mr. Nick DJ ti fa sognare. Ogni secondo che passa c'è un problema in più, questa vita è un ostacolo che non va mai giù. Forse è un destino da seguire, forse è un destino da seguire. Penso che questo non è l'attimo di svanire. No, rialzati e guarda in faccia all'aria. Non c'è nessun amico che ti aiuterà. Ogni giorno che passa mi sento in gabbia. Non è paura, ma è rancore per un amico che a fianco non ha avuto un genitore.